Stamattina io mi sono insediato al Ministero e come primo atto ho voluto incontrare i riders, quelli che portano, nel caso del food, pietanze a casa delle persone in bici e che fanno parte dei nuovi lavori, ma sono soprattutto il simbolo di una generazione abbandonata. Buonasera e bentornati a In Punta di Pedale qui su Radio Wombat, Radio del Wombat. Qui con me c'è Ricco Baldo alla regia e oggi, eccolo. Eccolo. Ci sto. Puntata con due bei argomenti grossi. Belli argomenti, uno l'avete sentito, era il nostro caro Gigino. Sì. Prima di tutto, il food, le pietanze. Prima di tutto, nel mio primo giorno, io vorrei affrontare la questione di riders. L'ho fatto siciliano io. Ma invece lui è sud. Ischitano. No, non è ischitano, se è vicino a Napoli, vicino a Mirafiori. Vicino a Mirafiori? Sì. No, mi sbaglio. Vicino, boh. Vabbè. Vabbè, insomma. Comunque lui, l'avete sentito e... Si preoccupava dei riders. Era il primo giorno. Il primo giorno. Appena insediato, subito si preoccupava. Il secondo giorno si è dimenticato. No, non è vero, dai, il secondo giorno cioè, non si è dimenticato, qualcosina. Ma il terzo ha iniziato a scordarselo, poi piano piano. Ma non anticipiamo perché... Ce lo facciamo raccontare, hai ragione. Oh, bene, quindi... tutto a posto, ma guarda, è un sacco che non ci sentono. Siamo stati un pochettino assenti. E c'erano le feste, poi c'è stato un viaggio di cui parleremo più in là. E qualche difficoltà anche tecnica. Come il calzo, strano, dici. Strano, no, questa non, è nuova, non ci sono mai. Dite, voi indigeni, questa è nuova. Però siamo tornati belli carichi, dai. Sì, siamo tornati un carichi, po' raffreddati, ma carichi. No, dai, va bene. Si sente che sono raffreddato. No, non tanto. Il tuo dente? Bene. Il mio dente è assente. È assente? È stato tolto? È stato estratto? Sì. Pensate, allora come nuovo? Ma te lo rimettono? Si spera. Spero, dai. Girare con un buco al posto del dente. Non puoi fischiare? No, perché questo è anche... Ah, ok, è un molare. Sì. Dai, va bene, allora a posto, ce la puoi fare anche a fischiare mentre sei in bicicletta. Ma stasera è la serata, fra l'altro, anche della Critical. Della Critical Mass, potremmo chiamare qualcuno, ma ci scoccia. Hai ghiaccio, a parte se hai ghiaccio, quindi noi sì, ce ne staremo qui al calduccio, relativo, nella tana del Wombat. Nella tana del Wombat, ragazzi, ora con le ristrutturazioni della tana del Wombat abbiamo pure il caminetto. È vero, è nuova la stanza della la regia del Wombat, sta diventando sempre più bella. Voi non la potete vedere, per fortuna, ma noi sì. E piano piano anche le voci di fondo saranno insonorizzate, si spera, e così potrete sentire. Ci servirebbe un bollitore per le tisane. Per le tisane, si porta. Il problema è che i bollitori ciucciano un sacco di elettricità e magari ci fanno tanto tutto. Non ci rimane l'elettricità per la radio, quindi no. Si può provare comunque. Visto che già abbiamo abbastanza problemi tecnici. Problemi, non sono pochi, quindi sì, effettivamente. Insomma, questo Di Maio? Questo Di Maio è un Di Maio smemorato. Sì, ma però quindi... allora, quello lì era appunto come te giustamente dicevi, era il primo giorno di appena insediato, uno dei suoi cavalli di battaglia l'ha buttato subito nel mezzo, era questo dei riders, quello era appunto la conferenza stampa, la prima conferenza stampa. C'è anche un seguito. Io ve lo faccio sentire, se volete. Sì, è interessante anche il seguito. Vai, questo è sempre Gigino. Non ha né tutele e a volte non ha neanche un contratto. Questa è sempre la generazione Ci sono abbandonata. Tanti ragazzi e tante persone in Italia che hanno seri problemi anche ad essere soltanto inquadrati in Italia. solo ad avere un diritto minimo, che può essere un'assicurazione sul posto di lavoro, che possono essere diritti legati a una paga minima, dignitosa, e che consenta alle persone di poter fare una famiglia, migliorare la propria qualità della vita. Iniziamo un percorso ogni tanto. Che passa per un modello di lavoro in questo paese meno precario, che deve avere un salario minimo orario e che deve prevedere anche il confronto tra chi lavora in questi settori e colossi di multinazionali che il governo può portare al tavolo e può iniziare a far discutere tra di loro. C'è tanta gente che ha un lavoro ma chiede un po' di dignità, gliela possiamo dare con una paga minima oraria, ma soprattutto la possiamo dare favorendo il confronto tra grandi gruppi internazionali e magari ragazzi di 20 anni o 30 anni che lavorano ogni giorno e che chiedono diritti minimi, non stanno chiedendo neanche la luna, grazie a tutti. E grazie Gigino. Buffone. Scusa, mi è venuto spontaneo. Era Gigino. L'avete sentito il confronto di Gigino? L'altro giorno è uscita una vignetta simpatica. Il presidente Mattarella accoglie Gigino con un corazziere da colorare, perché è l'unica cosa che potrebbe... Un compito perché, alla sua altezza. Esatto, un compito alla sua altezza. Gli hanno dato i gessetti e gli hanno detto: dai, prova a colorarlo, disegna il disegnino. Comunque, appunto, il confronto è, questo, è questa la cosa principale che lui porta avanti. Sì, è interessante, sì. Perché lui un po' si è proposto questo, di fare da anello di congiunzione tra le grandi multinazionali e i poveri ragazzi disgraziati che non hanno un cazzo di diritti. Ma ci sarà riuscito? Dubito. Non lo so, è ancora molto vaga. Di fatto ci sono state delle novità in Italia. Una è quella dell'appello, del ricorso accolto dall'Alta Corte di Torino nei confronti dei 5 riders ex Foodora. E sono stati riconosciuti alcuni diritti, una paga più alta, le ferie la tredicesima, quindi saranno praticamente rimborsati. Questo però sentiremo un'intervista più tardi a uno dei 5 riders, perché la faccenda è più complicata di quello che sembra. Fatto sta che comunque anche sul riguardo al tavolo nazionale, avviato appunto dopo, appena insediato, ha avviato questo confronto fra le grandi multinazionali e i riders, e questo tavolo nazionale è chissà come è finito, non lo sappiamo noi, ma non lo sanno neanche chi ha di fatto ha partecipato a quel tavolo. Potete trovare sulla pagina di Riders Union Bologna, trovate un post anche piuttosto chiaro come sono i post dei ragazzi bolognesi e delle ragazze bolognesi, e quindi grande punto interrogativo di fronte a tutto questo. Però abbiamo un'intervista noi, giusto Denver? Un'intervista diciamo direttamente sulla notizia, perché intervistiamo uno dei ragazzi ex Foodora che ha fatto il ricorso. Quindi è una persona direttamente informata dei fatti e che può darci davvero informazioni fresche, vive. Eh sì, senti, io prima però manderei un pezzo. Sì dai, mandiamo un pezzaccio così ci dimentichiamo di Gigino. È un pezzo scelto un po' sull'onda di questa grande novità che è il reddito di cittadinanza. Wow, sentiamo, sono curioso. Non vi dico neanche di chi si tratta perché lo sapete da voi. Ho picchiato la testa, lasciatemi stare, non lo vedete, non sono più normale. Ho picchiato la testa, lasciatemi dormire, avvertitemi quando è pronto da mangiare. Ma se lei chiamerà, mandatemela di qua. È perché son malato, tutti mi tormentano. È perché son sbagliato, posso lavorare, perché ho picchiato la testa, non sono più normale, non sono capace di intendere e volere, ma se lei chiamerà, andatevela di qua. Ma perché sono malato, tutti ne approfittano. Il simbolo di una generazione abbandonata, abbandonata, ai microfoni di Radio Wombat, uno dei cinque compagni torinesi che hanno affrontato il processo presso la Corte d'Appello di Torino, e alcune delle richieste sono state accolte. Se ci puoi raccontare come è andato il processo e che cosa rappresenta per voi questa vittoria. Allora, ciao a tutte e tutti. Innanzitutto devo dire che il processo di secondo grado è finito per noi abbastanza bene, nel senso che appunto è stata accolta una delle richieste, mentre in primo grado tutte le richieste erano state bocciate dal giudice. Quindi arrivando da un primo grado disastroso non sapevamo bene cosa aspettarci. In realtà appunto delle nostre richieste, che erano il rapporto del riconoscimento, cioè il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, un danno relativo alla violazione delle leggi sulla privacy, uno sulle violazioni della legge antinfortunistica e il licenziamento ritorsivo, è stato accolto in parte quello sul lavoro subordinato, nel senso che è stato riconosciuto dal collegio dei giudici che il nostro lavoro all'epoca, si parla del 2016, non era lavoro autonomo, quindi il contratto che ci faceva Foodora, che era un co-co-co, non era giusto, ma che ci vanno riconosciute quelle che sono la retribuzione di un il trattamento economico di un lavoratore subordinato. Ecco, in un contratto della logistica. CNL in relazione al contratto della logistica dei trasporti, quindi in realtà appellandosi all'articolo 2 del Jobs Act, i giudici hanno stabilito che appunto noi non eravamo lavoratori autonomi ma eterorganizzati. E quindi avete diritto a un corrispettivo. Sì, esatto, ora non si è ancora ben capito come si quantifichi, però, perché non abbiamo ancora in mano le motivazioni dei giudici e quindi la spiegazione di quanto poi potremo chiedere, però di fatto sì, Foodora dovrà darci un po' di arretrati che all'epoca non ci dava, perché appunto ci pagava 5 euro l'ora e basta, che ovviamente è molto di sotto dei livelli minimi dei stabiliti dal contratto di tratti nazionali. Ecco, e ha riconosciuto quindi in un certo senso la subordinazione, un po' in linea con tutto, con quello che dicono anche i tribunali di tutta Europa, se non anche di oltreoceano, però non vi è stata accordata la reintegrazione. No, quello no, e non è stato riconosciuto il licenziamento, perché non lo sapevo ancora, e in più Foodora non c'è più in Italia, se n'è andata via alla fine dell'anno scorso, quindi... In realtà sarebbe stato anche difficile essere reintegrati, però no, nel senso poi a livello di risarcimento avremmo avuto un sacco di soldi in più con la reintegrazione. Però lì probabilmente ha giocato un po' il fatto che appunto non esiste più l'articolo 18 e non lo so, vengono a cadere un po' di tutele anche in quel senso lì rispetto al fatto di essere lasciati a casa. Noi chiedevamo un licenziamento perché appunto l'azienda dall'inizio delle proteste che avevamo promosso, a cui avevamo partecipato, ci aveva negato la possibilità di partecipare a delle, cioè di lavorare, insomma. Noi chiedevamo delle ore di lavoro sul calendario virtuale che appunto stabiliva l'andamento dei turni di lavoro, e l'azienda non ce li dava, quindi ci lasciava di fatto a secco. Aveva fatto una serrata e questo è durato fino a poi alla fine del contratto. Alla fine del contratto ci aveva proposto in maniera abbastanza ridicola di continuare a lavorare con loro a cottimo, e a quel punto però non aveva più senso, noi non lavoravamo più da un mese e mezzo praticamente. Ecco, e fra l'altro ho visto che Foodora dovrà pagare anche parte delle spese legali, che... Esatto, sì, la decisione dei giudici, che è abbastanza strana a quanto pare, nel senso che comunemente non avviene così, è che Foodora dovrà compensare un terzo delle spese processuali, stabilite poi secondo dei parametri che sono standard, stabiliti dal tribunale, che sono, mi pare, 15.000 euro per il primo grado e 10.000 per il secondo, una roba del genere, però dovrà coprirne un terzo, quindi circa 7.000 euro, boh. È una roba un po' strana, nel senso che di solito appunto i tribunali le ficcano le spese, le ficcano tutte, invece in questo caso hanno optato così per questa mezza, anche lì, parziale vittoria, ecco. Anche per i nostri avvocati. Ecco, parziale vittoria, però di fatto lo è una vittoria, è una vittoria anche storica nel panorama dei riders italiani. Come siete arrivati a questo e che cosa rappresenta per voi? Allora, è una vittoria sì, appunto come dicevo all'inizio, in relazione al primo grado in cui le nostre richieste erano proprio state rimbalzate dal giudice, aveva fatto anche abbastanza scalpore, mi ricordo, perché appunto oltre a un'altra delle presunte, che poi io non conosco bene, delle presunte forzature in ambito giuridico, che sono anche la cosa meno interessante, la cosa che faceva scalpore invece era, no, proprio questo sentimento di ingiustizia, no? Per cui sei ragazzini fanno causa alla multinazionale e perdono di brutto, dove in tutta Europa, appunto, come già dicevi, accennavi prima, appunto le cause di lavoro stanno portando un po' di risultati e dei precedenti giurisprudenziali, invece in Italia la prima causa veniva proprio bocciata. Allora sì, dopo un primo grado così, chiaramente quando è stata riformata la sentenza sono stati molto sollevati. Ora di per sé il precedente non crea, non fa legge, nel senso è un precedente che può essere utile. Può essere utile se usato con intelligenza per quelle che sono le mobilitazioni future, per quelle che sono anche le cause future. Ora starà appunto a noi prendere in mano anche il merito di quella che è stata questa vittoria in tribunale, che di per sé appunto non è una vittoria di lotta, però può essere uno strumento per andare magari avanti, per fare un po' di pressione ai padroni, per fare un po' di bailam. Certo è che appunto in questo momento altre forze si stanno cercando di intestare questa vittoria, parlo non solo della politica, ma anche dei sindacati, ecco, aspiranti sindacalisti. Allora, illustraci, spiegaci un po' la situazione com'è, perché abbiamo visto che tanti sindacati hanno cercato di mettere il cappello sulle varie vittorie e mobilitazioni dei riders, dei lavoratori in bicicletta. Allora sì, per una cosa o per l'altra, diciamo in generale in Italia il sindacato non è gli sindacati, diciamo quelli ufficiali, ma poi in realtà anche quelli di base, non sono mai riusciti tanto a entrare nelle vicende dei rider, sia per una proprio per come sono strutturati i sindacati, sia per la soggettività che sono i rider, sia anche per come è strutturato il lavoro dei rider. Io mi ricordo ad esempio quando abbiamo fatto le prime proteste a Foodora, qualcuno di noi si era tesserato a un sindacato di base per poter aprire, diciamo, in maniera formale uno stato di agitazione, e la risposta dell'azienda, quando abbiamo presentato questi delegati, diciamo, queste persone tesserate al sindacato, è stata che l'azienda semplicemente non riconosceva il sindacato, perché noi, non essendo dipendenti, non avevamo diritto a una sindacalizzazione. Non c'è niente da riconoscere. Quindi, questo chiude anche un po' l'agibilità dei sindacati. Comunque, in generale, per un motivo o per un altro, ad esempio, un'altra cosa a Torino, abbiamo sempre cercato di organizzarci al di fuori dei sindacati, cioè, a parte quel primo episodio lì, o magari delle consulenze che ci stanno con i sindacalisti, però di fatto siamo un'assemblea di lotta autonoma, diciamo. Appunto, debole, cioè nel senso, debole su questo fronte invece la CGIL e la CISL, che sono un po' più spregiudicate, hanno cercato di infilarsi nella faccenda dei rider, diciamo non dalla porta ma dalla finestra, nel senso che quando Di Maio ha aperto il tavolo di contrattazione, il famoso tavolo di contrattazione, ecco, che sì, è morto nel nulla. Poi ci arriviamo anche al tavolo. Sì. I sindacati erano una delle parti in causa, diciamo, una delle parti sul tavolo, pur non avendo rappresentanza né formale né né quantomeno simbolica tra i rider. Però appunto, essendo che nei tavoli che riguardano il lavoro ci deve essere il sindacato, loro erano lì, non so con che faccia. E adesso appunto cercano, non lo so, penso che cercheranno di fare anche loro delle cause di lavoro, cercheranno di, adesso spingono per un accordo di settore, perché appunto dopo questa sentenza qui, che ha fatto di nuovo un piccolo scalpore, diciamo, un piccolo clamore mediatico, che i sindacati, che il governo ha iniziato a parlare di rider, per poco devo dire, e appunto mentre il governo ha detto adesso noi facciamo il nostro intervento diretto, non vogliamo più sentire parlare di tavoli, non vogliamo più sentire parlare di niente, invece il sindacato spinge per un accordo di settore, quindi un accordo in cui sia protagonista per quel sindacato. Ecco, cos'è che vi ha schifato così tanto del tavolo con il governo? È stato aperto praticamente il giorno dell'insediamento del nuovo governo, e con grandi fanfare sui media, sulle televisioni, vi discorrendo, quasi che la parte 5 stellata abbia tentato di fare sua questa lotta. Esatto, sì, in quel momento lì sì, a parte che era uno dei rischi di una lotta così sovraesposta mediaticamente, nel senso che siamo diventati un po' la bandiera. Mi ricordo un titolo abbastanza agghiacciante dei giornali in quel periodo lì, che diceva: legittima difesa e rider, le leggi bandiera del governo giallo-verde, no? Sì. Quindi da una parte ammazzare il poveretto in giardino, dall'altra dare un contentino ai rider. Ok, ora non mi sono informato come sia finita la legge sulla legittima difesa, ma comunque per i rider non hanno fatto veramente niente, nel senso che appunto Di Maio all'inizio, proprio il primo giorno del suo insediamento, come dicevi, ha promesso un intervento molto rapido sulla questione rider, quindi una legge risolutiva. Noi abbiamo visto la bozza del decreto Barbieri, di quello che sarebbe stato il decreto Barbieri, cioè la clausola rider nel decreto dignità. Non è mai stata approvata per via di spinte interne delle parti più vicine a Confindustria, alla Lega, e quindi Di Maio ha pensato bene di aprire un tavolo, no? Per prendere tempo, per avere più visibilità, per passare come più democratico, per dare anche ai padroni la possibilità di avere il loro spazio in questa manovra, che altrimenti non avrebbero avuto con un intervento diretto del governo. Ha aperto il suo tavolo. Gli effetti io dico che sono negativi, perché appunto da una parte ha legittimato tutta una serie di personaggi che poi sono, cioè, dicono di essere rappresentanti dei rider in altre città, nella loro, diciamo, corsa alla visibilità più politica, no? Per cui già, certo, hanno un percorso di rappresentanza che va più verso la concertazione con la parte politica e meno nella lotta nelle strade, quindi con questo tavolo si sono veramente ipergonfiati, non so come dire. Hanno avuto anche loro una loro bella sovraesposizione. Dall'altra parte il governo è uscito pulito dicendo: vabbè, facciamo una roba davvero democratica, mettiamo d'accordo i padroni con i rappresentanti dei lavoratori. E è andata a finire? Dall'altra parte poi le aziende si sono riunite in cartelli tipo Asso Delivery, che è una roba tipo Confindustria, diciamo così, associazione di padroni che difendono i loro interessi. I sindacati sono riusciti a entrare nella faccenda rider. È andata a finire con nulla di fatto, nel senso che appunto tra tentennamenti, questi non portavano la proposta, gli altri non rispondevano, alla fine la cosa si è proprio spenta decisamente. Ecco, quello che perfetto ha rappresentato questo tavolo per tutta la sua durata, ed è durato parecchi mesi, è stato un paravento, questo lo posso dire dal punto di vista pratico, magari meno ideologico, un paravento dietro il quale le aziende si sono riparate rispetto alle richieste che venivano inoltrate. Ad esempio noi a Torino eravamo andati a parlare con un rappresentante di Globo, per portare delle rimostranze in merito al fatto che non c'è un'assicurazione decente, no? La gente si fa malissimo. E così la rappresentante di Globo diceva: no, di queste robe non parliamo né qui, se ne parla al tavolo di Roma. Quindi ecco, infatti, questo tavolo aveva anche l'effetto collaterale, diciamo, di smorzare quello che era il protagonismo di molti colleghi che invece sentivano la rabbia, volevano esprimerla, volevano andare a parlare delle proprie condizioni di lavoro. Immagino fra l'altro che non sia stato l'unico effetto collaterale, perché questo confronto ha creato, se non mi sbaglio, anche diverse fratture all'interno del movimento dei riders nelle varie città. Sì, beh, quelle sarebbero, forse sono un po' pessimista, quelle sarebbero prima o poi venute a galla, no? Nel senso che magari sono diverse impostazioni, diversi orizzonti. Appunto noi a Torino abbiamo sempre cercato di tenere un comportamento meno sindacale possibile, di non avere contatti con figure intermediarie legate alla politica, no? Proprio per una ma sì, da parte per una scelta di qualcuno, dall'altra parte anche perché proprio non lo so, molti colleghi non hanno l'amico assessore, non so come dire. Certo. Non è normale avere un amico assessore. Direi. Solo qualcuno ce li ha, diciamo. E quindi niente, non lo so, noi ci siamo sempre impostati così più sul creare una comunità di lavoratori che e sulle lotte in strada. Anche furia, ecco. Forse dal punto di vista del colore politico, nel senso che appunto non lo so, mi facevo vanto del fatto che una volta venisse un ragazzo che era decisamente di destra alle nostre assemblee, poi appunto faceva le cose con noi, con ragazzi e ragazze. Anche ha cambiato stranieri. Anche orientamento magari. Sì, sì. Allora vedi... Bene, ma invece appunto si parlava prima che a livello europeo stanno succedendo tutta una serie di cose e anche la vostra lotta, se non mi sbaglio, tende a allargare oltre i confini nazionali. Allora sì, sicuramente esiste, cioè nel senso ci sono mobilitazioni un po' in tutta Europa, non vorrei essere né torinocentrico né vantare dei primati che non esistono, non siamo neanche stati i primi noi a Torino a fare le lotte dei rider. Esistono anche dei tentativi di coordinamento, ad esempio il primo dicembre scorso si è stata lanciata una giornata europea di mobilitazione dei rider, noi abbiamo fatto un'azione a Torino, insomma, che poi è diventato un corteo, è stato anche molto bello, però appunto a parte queste, diciamo, grosse giornate che poi hanno un valore più simbolico di testimonianza che altro, i coordinamenti europei non sono molto propulsivi a livello proprio di mettere in difficoltà le aziende. No, è una roba sicuramente importante, interessante il fatto che ci si coordini e ci si conosca, soprattutto anche perché le aziende tendono a disporre delle condizioni di lavoro simili ma anche diverse da posto a posto, quindi capire quali sono i vantaggi in un posto piuttosto che in un altro, quali sono le leve che si possono utilizzare, però appunto finora non... Uno sciopero europeo non ha mai messo in seria difficoltà un'azienda. Sicuramente è molto importante conoscere colleghi di altre nazioni e anche provare a organizzarci. Sì. Bene, e invece per finire, quali sono un po' i vostri propositi nell'immediato futuro? Se poi ci lasciate anche due contatti, o se avete una pagina da seguire, o se avete un'assemblea magari che si riunisce con una frequenza definita. Allora, essendo un lavoro abbastanza, appunto, cioè l'organizzazione del lavoro dei rider è abbastanza peculiare, abbastanza neomoderno, postmoderno, come vuoi chiamarla, c'è un turnover continuo, ci sono continue sostituzioni, continue assunzioni, è molto difficile fare dei piani anche a lungo termine, però diciamo che appunto a Torino, con un po' di buona volontà, cerchiamo di darci delle scadenze. Adesso le più vicine sono, diciamo, come mood che stiamo cavalcando, cioè quello di cercare di contrastare il fatto che ci sono veramente troppi feriti in strada senza assicurazione, ci sono stati anche dei morti in Italia, e poi continuare ad allargare, insomma, la conoscenza fra i colleghi di quella che è la nostra esperienza di organizzazione di lotta. Quindi nell'immediato, questo mercoledì, faremo una festa nel nostro posto che usiamo per trovarci, che è Casa Rider, che è uno dei locali in Via Verdi 9, dove c'è la cavallerizza, okay. Per chi conoscesse Torino, e niente, dalle 22 metteremo un po' di musica, insomma tutto autoprodotto, organizzato, diciamo, e niente, poi in realtà cercheremo di beccarci con colleghi di altre città per capire come andare un po' avanti, c'è bisogno di darsi un buon coordinamento. Certo. Anche a livello nazionale, però appunto le priorità restano quelle di... Cioè, se ci pensi, noi conosciamo colleghi attivisti, diciamo, di tutti i paesi d'Europa, però ci sono colleghi qua a Torino che non sanno che non esistono le mobilitazioni dei rider. È una roba strana, può fare specie, perché chiunque un telegiornale negli ultimi 2 anni ha sentito parlare delle lotte dei rider, però poi evidentemente... E dove vi possono trovare questi colleghi ignari? Allora, questi colleghi ignari possono cercare su Facebook Deliverance Project, che è il nome della pagina che abbiamo creato per dare un po' voce a quelle che sono le istanze, le sensazioni e le lotte dei lavoratori delle consegne in bicicletta a Torino. Bene, bene, benissimo. Allora direi che hai alcuni annunci da fare, in particolare qualcosa da dire prima di lasciarci? Ho detto abbastanza. Bene, benissimo. Allora noi ti ringraziamo e ti facciamo in bocca al lupo per vi facciamo in bocca al lupo a tutti e a tutte per le lotte che state portando avanti e magari a risentirci. Grazie mille. Grazie a voi per la possibilità di grazie a te poter farsi esprimere. Bene. Buona serata. Anche le foche bevono Radio Wombat. Torniamo a regia, torno a regia in verità perché il nostro Denver è andato a caccia dal kebabaro. Abbiamo fame, la serata è ancora lunga, non tutta in radio, ma la fame incombe, insomma. Avete sentito l'intervista al compagno torinese? Bravissimi, bravissimi, veramente stanno svolgendo un ottimo lavoro. E nonostante le mille difficoltà nel confrontarsi con le istituzioni e anche insomma le grandi aziende, nel frattempo aspettiamo Denver. Io ho pronto un altro pezzo da mandarvi, però penso che vi ricorderò ancora un paio di cosette. Intanto il nostro indirizzo di posta elettronica è postawombat@insiberia.net. Potete scriverci per qualsiasi cosa, potete mandarci suggerimenti, potete mandarci critiche se volete, anzi soprattutto critiche se volete, potete mandarci, se trovate un adesivo Wombat a giro per il mondo, mandateci una foto che sarà poi riportato nell'Accademia della Brusca. Accademia della Brusca che fra l'altro va in onda esattamente dopo di noi. Il palinsesto di oggi prevede, dopo in punta di pedali, abbiamo alle ore 20 l'Accademia della Brusca, alle ore 21:15 Uhuru, entrambi in diretta, e poi infine abbiamo alle 23 la replica di Tonight Alive. Dicevamo postawombat@insiberia.net, ci potete ascoltare o sulle frequenze 1359, soprattutto nella piana fiorentina, in città abbiamo ancora un po' di problemi, potete ascoltarci altrimenti su, immagino che ci stiate ascoltando, su wombat.noblogs.org. Abbiamo anche un'app, la seconda versione dell'applicazione Wombat, la potete scaricare direttamente da Noblogs e potete anche dirci se funziona o no. Qualcuno ha un po' di problemi perché a volte si spenge, però la stiamo migliorando. Ci sono tutta una serie di modifiche che stanno avvenendo sul palinsesto Wombat, perché si stanno aggiungendo diverse trasmissioni. Una si aggiungerà brevissimo, si occuperà di hip hop, è cambiato un po' lo spazio informazioni, non si chiama più, insomma, Wombat News, va in onda il martedì all'ora di pranzo, e anche un po' il palinsesto delle repliche è variato. Abbiamo tanti progetti in tasca da tirare fuori. E detto questo, io nel frattempo che aspetto il buon Denver che tornerà con due panini col falafel, direi che vi mando una canzone, vi mando un pezzaccio e vi mando un pezzaccio, e il pezzaccio si tratta di Una vita al top, Giancane Wombat. Alla fine me ne andrò, voglio godermi tutto, vorrei una vita al top. Non voglio le tue lacrime, il giorno che sarà, vorrei una grande festa senza freddi, senti qua. Bottiglie dentro al carro, bella musica e poi te, sfascella, canta, balla, grida, alzati, perché quando morirò, non importa, sarò morto, esulterò. giorni io alla fine me ne andrò. Spero non adesso e spero che non soffrirò. Mi scuso già da ora con chi ho fatto un po' il burlone. La lista non è lunga, una dozzina di persone. Ma tanto sarò morto e un migliore diventerò. Ma se hai fatto lo strozzo te lo giuro tornerò. Quando morirò, non importa, sarò morto e esulterò. Quando morirò, non voglio le tue lacrime, voglio una vita al do. Quando morirò, non importa, sarò morto e esulterò. E quando morirò, non voglio le tue lacrime, voglio una vita al do. Sarò morto e esulterà. Quando morirà, non voglio le tue lacrime, voglio una vita al top. Non voglio le tue lacrime, voglio una vita al top. Radio Wombat. Da sempre e obiettivamente la migliore. Siamo rimasti così contenti che non escludiamo di firmare ordinanze analoghe a partire da marzo. Quando tornerà la bella stagione e probabilmente si ripresenteranno situazioni del genere. Niente, caro Briccobaldo, come hai visto siamo stati un po' assenti. Io in questa lunga assenza... Siamo stati un po' assenti, sì, è vero. In questa lunga assenza... Che è successo? Durante le vacanze di Natale ho compiuto un viaggio. Dai, dove? Sono andato nella dimensione beta. Sì, ero lì con la mia bici, sono passato in questo sottopasso che ha aperto uno spazio... Un tunnel spazio-dimensionale, non lo so. Comunque, sono finito in questo posto qua. Si chiama dimensione beta. Me l'hanno spiegato. Si chiama dimensione beta perché lì l'egemonia culturale della bicicletta ha vinto. Dai, c'è bello. L'egemonia culturale della bicicletta. Tutto si basa sulla bicicletta. Figo. Le macchine sono relegate in delle piste che si chiamano piste automobilistiche, dove possono stare solo lì, non possono uscire. E immagino che i ciclisti ci parcheggiano sempre sopra. Esatto, ci parcheggiano le mobike di traverso e le macchine si devono fermare. Beh, bellissimo. E questo è uno dei problemi che devono affrontare in questa città che si chiama Birenze, che è la città nella dimensione beta, di cui io pedalando su, in giro per le strade liberamente, perché la bicicletta può andare dovunque. Che succede? Ho incontrato il sindaco di Firenze. Pensate, il sindaco di Firenze. Il sindaco di Firenze che si chiama Bario Bardella. Bario Bardella? E noi, è una persona gentilissima, non è come quei politici che se la tirano, che se non hanno, eh? Lui è alla mano, è alla bici, e ha accettato di essere intervistato da noi. E lo abbiamo qui al telefono in una telefonata interdimensionale. Dai, bellissimo. Buonasera, signor sindaco Bario. Buonasera. Bene. Buonasera, come state? Bene, noi sa, noi da queste parti purtroppo noi con le bici non possiamo fare tutto quello che fate voi. Ci dia una parola di conforto innanzitutto. Come possiamo fare? Intanto, vedete, mi manca proprio il sindaco giusto. Dovete capire che come si fa a pensare ancora a quegli strumenti che vanno con la benzina, con quella roba lì, quella roba schifosissima. Qua stiamo facendo ordinanze su ordinanze per escludere totalmente l'uso di altri veicoli che non siano fatti con due ruote, che non siano a trazione umana. Ah, bellissimo. Ma ci sono anche, che so, i rickshaw. Io ho visto anche i rickshaw, ci sono. E coi riders come fate? I rickshaw stiamo piano piano cercando di eliminarle, perché quattro ruote già sono una paraculata, insomma. Ne bastano due, abbiamo due gambe, no? Esatto, ne abbiamo quattro, esatto. Abbiamo due gambe, quindi bastano due ruote. Esatto, ma adesso stavo lavorando a una nuova ordinanza che a breve lanceremo, e sulla possibilità di, anzi sull'obbligo di poter andare in bicicletta senza usare le mani. Ah, benissimo. L'obbligo? È quasi un obbligo, perché non è possibile che la gente che deve lavorare, deve telefonare a casa, deve rispondere. Io vado sempre in giro con una mano al telefono e l'altra saluto la gente per strada. Ma è tipo fornire... Perché sono famoso qui a Firenze, quindi... Ma fornire gli auricolari, no? Con le mani appoggiate sul manubrio, no? Non si può. Gli auricolari? E iniziano con la... Gli auricolari poi si inceppano, se ti cade entra nelle ruote. Abbiamo fatto uno studio, ci sono stati ben 152 per esattezza incidenti dovuti a auricolari, sì, che si sono incastrati. Peggio delle macchine, sindaco, ma anche voi avete l'ordinanza piazze vivibili? Come abbiamo l'ordinanza piazze solo per parcheggi a biciclette. Praticamente sto facendo mettere rastrelliere, sì, al posto degli alberi, perché gli alberi sono, lo sa, se sono troppo larghi non riesci neanche a legarci la bicicletta, no? Perché il tronco a volte è troppo grande, quindi lasciamo soltanto gli alberelli del cazzo di massimo 20 centimetri di diametro, okay, e gli altri li facciamo fuori, ma bene, ci mettiamo delle tre rastrelliere bellissime di colore viola. Ma questa cosa di tagliare gli alberi mi ricorda qualcuno. Ma non so, vagamente c'è anche un'assonanza fra Bardella e il nostro dimensionale. Ma adesso ci saranno le lezioni anche lì da voi? Siete proprio in parallelo? Assolutamente. La mia campagna è la bicicletta per tutti, e chi non è munito di bicicletta dovrà trasferirsi altrove. Democratico. No, più o meno, sì. Diciamo che qui ci vanno bene di tutti i colori, di tutte le etnie, di tutte le religioni, ma non di tutte le mobilità. Esatto. Ma senta, quindi, una domanda... soltanto due ruote, carrozzine o biciclette. Ma scusi, ma lei quando deve andare al mare, cioè come fa? Parto una settimana prima, sto un giorno al mare e torno e mi prendo due settimane libere, il resto devo lavorare, sa? Esatto. Ma volevo chiedere, ad esempio, avete voi il problema dei pass handicappati per i SUV, per far entrare i SUV in centro? Ce l'avete questo problema? Allora, i SUV li abbiamo bruciati tutti. Devi sapere che abbiamo creato un corpo speciale. I bigilini, non so se nella vostra dimensione sono i bigilini, cercavano, andavano in giro a caccia di SUV. Per fortuna li abbiamo eliminati tutti. Ma ora i bigilini, bucando le ruote e mettendo le banasce alle ruote, e adesso soltanto biciclette. Ci avete fatto gli orti sociali sui SUV? Mi ricordo che quelli fanno male. No, ho capito. Senti, ma però una domanda mi sorge spontanea, visto... Sì, mi dica. Ecco, il grado di stress delle città con le auto è altissimo, perché il traffico, cioè... Però immagino che comunque anche l'obbligo di utilizzare solo la bicicletta sia fonte di stress e di agitazione, o mi sbaglio? Guardi, sì, allora si sbaglia. Intanto... Le dicevo che eliminando gli alberi già si elimina un grosso problema della ciclomobilità di Firenze. E l'altra grande opera a cui stiamo lavorando è il TAC, il tratto ad alta ciclomobilità, che è un bel tunnel, pensi che idea, che passa tutto sotto Firenze, praticamente soltanto per le biciclette. Quindi lei potrà passare, attraversare da Besto o Buinto, ma anche da Barto, arrivare fino a Bagno a Bipoli, okay, passando da questo tunnel. Beh, pazienza, ma mi scappa un po' da ridere a sentire questi nomi. Sai, questi nomi un po' strani, voi delle beta. Però mi sorge un'altra domanda spontanea, ma invece riguardo allo smaltimento di tutte le bici con l'usura, immagino, cosa avete ideato? Abbiamo ideato un'idea geniale, le mandiamo tutte in Bafrica. Le mandiamo tutte in Bafrica e in effetti sono molto più contenti, perché lì da loro sa la mobilità è ancora più un problema, e adesso che possono muoversi con la bicicletta anche nel villaggetto non hanno più bisogno di venire qui da noi. Ma invece avete mai pensato a treni a pedali o aerei a pedali, cose del genere? Guardi, quello lì dovrebbe telefonare al nostro caro ministro dei trasporti Boninelli, e lui probabilmente le saprà dire qualcosa in merito sui progetti futuristici. Io cerco di occuparmi solo della mia città. Senta, ma io però, cioè, Boninelli mi viene da pensare molto al ministro del nostro paese, Toninelli. Non è proprio una figura così attendibile, ogni tanto fa qualche gaffo, ogni tanto lavora tanto, lavora moltissimo, quindi poi ogni tanto è stanco succede lo stesso al vostro Boninelli? Sì, poverino, fa un po' di gaffo. Pensi che l'ultima volta noi abbiamo chiesto di come poteva, insomma, risolvere proprio il problema dell'attraversamento dei valichi, no? Che come immagino, forse anche nella vostra dimensione, a salire fino a 2000 metri e poi riscendere nei paesi vicini al nostro, a volte è un po' stancante, no? E quindi sì, ha detto, va bene, allora dobbiamo fare un bel valico, attraversare, insomma, le montagne facendo un buco, e non è stata ben voluta quest'opera. Che stanno cominciando a costruirla, ma ci vorrà un po' di tempo. Ci sono problemi. Però dovrebbero risparmiare di circa 150 ore l'attraversamento dall'Italia alla Francia. Vabbè, dai, insomma, può valer la pena, quindi. Dall'Italia alla Francia, diceva? Sì, esatto. Vedo che lei conosce bene la geografia del... Sono stato due settimane nella dimensione beta, quindi ormai... Vi siete informati bene. Sì. Va bene, senta, degli eventi particolari da lanciare di questa Firenze o... Qualcosa che ci vuole dire, che si sente di comunicare alle altre dimensioni? Beh, io, guardi, sì, ce l'ho. Sicuramente cerchiamo, mi raccomando, di stimolare... Allora, quando si va in bicicletta per Firenze, per favore, una mano col telefono e l'altra mangiate un panino, per favore, non vi fermate nelle piazze a mangiare il panino, non vi sedete sulle gradinate a mangiare i panini, ma mangiateli mentre andate in bicicletta, okay, così non la si scende dalla bici. Vi aiuterà. Perfetto. Questo è un consiglio che do spesso. Il sindaco Bardella è illuminato, devo dire. Bene, devo dire. Ma quanti denti le è costato arrivare a queste certezze? Non mi piace, questi che stanno a sedere a mangiare i panini, poi quando tutto il movimento della ciclabile, no? Poi uno casca sulla gente che sta a sedere sulle gradinate, scivola sul prosciutto e no, non va bene. Non va bene. Sai, il nostro sindaco, Dario Nardella. Non so se vi siete conosciuti. Sì, forse qualche volta nello specchio, nell'apertura dimensionale. Sì. E lui ha fatto questa pedalata che ha chiamato Hollandiamo, no? Si sono vestiti tutti da arancione e hanno fatto questa pedalata sperando di trasformare Firenze in Birenze. Lei come commenta questo tentativo? Ma ci provano, nel senso, da qua ne so, anche che ha studiato anche il violino, quindi non come me che ho studiato l'arpa. Ah, pensavo suonasse invece i raggi delle ruote, pensavo. Sì, no, diciamo che i raggi delle ruote. Preferirei non commentare perché mi fa molta tristezza che queste persone siano ancora così innamorate del tubo di scappamento, che io proprio non riesco a capire. Suggerirei di venire da queste parti, provare a venirci davvero col mezzo, e insomma capiranno ben presto, ecco, che cosa vuol dire una città senza alberi e senza macchine. Ecco, tutta un'altra cosa. Io, se posso, avrei un'ultima domanda da farle, signor Bindaco. Mi dica. No, dicevo, ma pensavo più che altro, ma a Firenze, nella nostra città, la situazione, come in tante altre città del mondo, è difficoltosa per le biciclette, tanto che gruppi di persone si sono auto-organizzate per una volta al mese fare una manifestazione libera, cioè senza delle regole, che si chiama Critical Mass, dove mamma le biciclette mia, fondamentalmente... Cioè, ecco, succede mamma la stessa mia. Cosa da voi con le auto? Guardi, non me ne dica, no, ancora peggio, le auto non erano abbastanza, ora con gli autobus, pensi che c'erano, un tempo c'erano delle linee di autobus che puzzavano tantissimo, che collegavano tutta la città, ma si parla di secoli fa, e adesso l'hanno provato a risumare, vedi, questi provano a occupare le strade ciclabili, che ormai sono tutte solo ciclabili, con questi mezzi mi fanno tanta pena, ci provano, rimangono poi incastrati intorno alle piazze, rimangono incastrati nelle curve, rimangono incastrati, non trovano parcheggio e poi arrivano la sera che sono sclerati perché hanno manifestato, ma sono tristi. Ma quindi tristi. Emetterà un'ordinanza anche per loro appena rieletto? Allora sì, allora guardi, ho promesso ai miei elettori che a un ingresso di strada farò mettere quelle strisce in terra chiodate, di modo che soltanto con la bicicletta è possibile passarci di lato, perché lascerò 20 centimetri da una parte e dall'altra della ciclocarreggiata, in modo che uno possa passare con le ruote della bicicletta. Grandioso, invece sì. Chi non ha le ruote della bicicletta lei è il nostro sindaco ideale. Lei davvero è il nostro sindaco ideale. Ma noi vorremmo votarla, però purtroppo è in un'altra dimensione. Vorremmo votarla. Votarla, sì, ovviamente. Signor sindaco, io... Provate a mandarmi comunque i vostri voti, se... provate. Proveremo. Magari mi arrivano. Provate, dovete scrivere alla mia mail, Dario Bardella. Provate e proverò a inviarvi alle schede elettorali. Digitali. Grazie, signor sindaco, grazie per questa intervista. Forse la richiameremo per avere notizie sulla sua rielezione. Sicuramente prossimo... la richiameremo. Ma si figuri, buona pedalata. Grazie, altrettanto. Arrivederci, signor sindaco. Arrivederci. Reclaim the field. Dal 5 al 10 febbraio a Mondeggi Bencomune, Fattoria Senza Padroni, Bagnoregoli. Allora, avete sentito Mario Bardella? Che gran sindaco, che cioè, gioia. Capito? Sì, no. Sicuramente rischio di là. Sì, può darsi. Vado nella dimensione bella. Può darsi. Mi stranisce un po' il fatto del taglio degli alberi. È un po' peso. È brutto tagliare gli alberi. Questa è una roba... Da noi non succede, no? No, figurati. Da questo punto di vista si sta meglio da noi. Da noi non li tagliano gli alberi. No, assolutamente. No. Senti, ma lo richiameremo sicuramente per avere aggiornamenti dalla dimensione Befa. Quello prima, prima della telefonata avete sentito un piccolo spottino, e era riguardo a scusate, riguardo alla ordinanza Piazze Vivibili, che ha avuto Piazze Vivibili, che ha avuto un grande successo l'anno scorso, e lui giustamente pensa di riproporla a partire da marzo, che comunque i debosciati tornano fuori dalla prima primavera estate, quindi è e bene prenderli a calcio in culo all'esterno, capisci? Sì. I debosciati vogliono vivere all'esterno perché arriva la bella stagione. Male questa cosa, sono proprio dei debosciati. Se vuoi stare all'esterno, puoi stare al massimo nei The Horse. Ah, già. Non ti azzardare a toccare uno scalino. Esatto. Sei pazzo. No, ma se esci già, se esci dal. No, no, ma sei pazzo. Dal gazebino, rovini il decoro. Sì. No, e Nardella oggi, fra l'altro, tesissimo in questi giorni, sta aspettando il risultato della conferenza dei servizi per l'aeroporto. Grandissimi annunci su tutti i giornali, visto era due giorni fa, poi è stata rimandata, mancano ancora delle sottigliezze. È stata rimandata al 6 di febbraio, quindi. Cos'è? Mercoledì prossimo. E lui se la farà sotto fino ad allora. Noi naturalmente speriamo che continui a farsela sotto e che questo cazzo di aeroporto non lo facciano. Però sembra che sia dura. E sembra sia dura. Altre cose volevo dire su Firenze. C'avevo qualcosa. Ah sì, un'altra novità. A parte il Randy Fields, che sarà una splendida. Un splendido incontro che si svolgerà a Mondeggi a inizio febbraio. E no, un'altra notiziona di settimana scorsa è quella di Alibaba a Firenze. Oh, visto che fra riders e cose, insomma, sono tutti molto attenti al lavoro dei giovani, hanno pensato bene, insomma, stanno trattando con la piattaforma Alibaba, che sarebbe l'Amazon cinese, per portare e fare il polo europeo proprio a Firenze di AliExpress, si chiama per l'esattezza, che è la piattaforma retail che permette ai consumatori del mondo di acquistare direttamente in Cina da produttori e distributori, capito? Cioè, proprio per stimolare, no, l'artigianato locale, cioè, e via discorrendo, locale. Sì. Combattere l'influenza, no? Del mercato cinese. Esatto. Il nostro sindaco dice: oh, queste sono parole sue, tratte da un articolo di giornale. Ho avuto un colloquio molto positivo e fruttuoso con il numero uno di AliExpress. Ha confermato il sindaco Dario Nardella, che investirà moltissimo in tutta Europa. E ho proposto Firenze per portarle qui il loro quartier generale. So che il gruppo cinese ci sta pensando seriamente. Fra l'altro. Non so se hai visto, ma Alibaba sta puntando a fare tutti i servizi praticamente come si dice, robotizzati. Quindi, sì, la gestione interna del magazzino, sia esatto. Il delivery. Quindi immagini quanto lavoro porteranno. Certo. Proprio fiumane di gente prenderanno. Eh sì, è così. E detto questo, forse noi abbiamo da fare l'ultima telefonata della giornata, vero? Proviamo l'ultima telefonata, vediamo. Veloce, abbiamo i compagni e le compagne che stanno per partire con la Critical Mass. Vediamo se li becchiamo al volo. No, saranno proprio per partire. Intanto te li provo a chiamare, io continuo a dire cazzate, fondamentalmente. E ci siamo, no, buono. Più che altro. Ti serve il mio cavo, vero? Ho bisogno del tuo cavo. Vuoi? Passami il tuo cavo. Allora, magie tecnologiche, ragazzi. Ecco che il cavo viene staccato. Sta arrivando. Viene collegato. Voi, insomma, non potete immaginare il livello della tecnologia che c'è qui nel Wombat. Vai! Parte la telefonata. Sentiamo. Rigoroso attimo di silenzio. Niente, non riusciamo a chiamare i nostri amici. Niente, allora... Denver, io ti propongo un pezzo e poi chiudiamo. Oh, vai. Un po' di musica fa sempre bene. Un po' di musica, si tratta di Giorgio Gaber. E noi ci risentiamo? Ci risentiamo fra due settimane. Tra due settimane, esattamente. Vai, Giorgione. Se vi siete perso qualcosa... Ci sarà il nostro podcast su wombatnoblogs.org. Fra pochissimo ci sarà il podcast e... Poi, se ci volete scrivere, posta... del Wombat, posta Wombat chiocciola in Siberia.net. Vai, ce l'ho fatta, non mi ricordo. E poi se ci volete ascoltare in AM 13:59, esatto, soprattutto nella piana. Vi lasciamo con Giorgio Gaber qui è Briccobaldo che vi saluta e Denver Wombat. Wombat. Niente, non ci funziona. Io sono un uomo nuovo, talmente nuovo che da tempo che non sono neanche più fascista. Sono sensibile altruista, orientalista, ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista. Qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialista. Allora, invece non vi abbandoniamo perché abbiamo fatto una magia. Ce l'abbiamo. Abbiamo fatto una magia e riusciamo a sentire il nostro inviato dalla massa. Vediamo, ci siamo. Nonostante tutto, microfono. Abbiamo abbandonato la cosa. Ma... Esatto. Vediamo se sentiamo il nostro BMXaro misterioso. Ci sei? Pronto? Pronto, pronto? Pronto? Pronto? Ah, ma forse non ci sta. Pronto? Forse non ci sta proprio ascoltando. No, ci sta proprio ascoltando. Ci sta facendo i cazzi suoi. Si sta facendo i cazzi suoi. Bene. Ehi, inviato. Un inviato scarso. Molto interessante sentire la vostra cosa. Direi di mandarli a fanculo e di continuare. Esatto, rimandiamo Giorgione, vai. Pronto? Sì, pronto. Ci senti? Pronto? Niente. Niente, dai. Niente. Ciao Critical Mass, fatevi bravi. Ciao, brava buona Critical Mass. Mi raccomando, rimanete solo in centro. Non andate in periferia, la periferia fa schifo. La periferia fa schifo, lasciamo... Andiamo solo a fare la passeggiatina in centro. Sì, solo la giratina in centro, così i turisti vi fanno le foto e... E siamo tutti contenti. E siamo tutti contenti, finiamo su Facebook. Questo sì che sono gioie. Eccolo. Buonasera a tutti. Un uomo nuovo, talmente nuovo che da tempo che non sono neanche più fascista. Sono sensibile altruista, orientalista, ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista. Qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialista. Io sono un uomo nuovo, per carità lo dico in senso letterale, sono progressista, al tempo stesso liberista, antirazzista, e sono molto buono, sono animalista, non sono più assistenzialista, ultimamente sono un po' controcorrente, son federalista. Il conformista è uno che di solito sta sempre dalla parte giusta. Il conformista ha tutte le risposte belle chiare dentro la sua testa. È un concentrato di opinioni che tiene sotto il braccio due o tre quotidiani, e quando ha voglia di pensare pensa per sentito dire, forse da buon opportunista si adegua senza farci caso e vive nel suo paradiso. Il conformista è un uomo a tutto tondo che si muove senza consistenza. Il conformista s'allena a scivolare dentro il mare della maggioranza. È un animale assai comune che vive di parole, da conversazione. Di notte sogni e vengono fuori sogni di altri sognatori. Il giorno esplode la sua festa, che è stare in pace con il mondo e farsi largo galleggiando. Il conformista, il conformista.